Avvocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. C'era un po' di nervosismo a fine partita sicuramente, ma oltre all'espulsione di Perisic per quell'episodio, ma credo soprattutto per due episodi che sono successi nel primo tempo nell'area della Juventus, che noi riteniamo che fossero dove si poteva prendere una decisione diversa. Regna della serenità, nel senso che io stimo Giampiero come stimo Cesari, però anche al supermercato c'è il 2 per 1. Questi sono secondo me due rigori, anche perché sono due giocatori, due in una volta. Assolutamente, io non pretendevo che me ne facessero battere uno dietro l'altro, no, ma neanche che me ne dessero magari uno, però magari è come la pallacanestro, no, bisogna arrivare al quinto fallo in aria e magari al quinto avremmo avuto i rigori. Quelli sono due rigori ad Mantini, secondo me. Durante la partita mi sono arrabbiato anch'io, poi una partita di calcio porta tanti episodi. Certo, ecco, non è stato benevolo, insomma, nei confronti del... Sono imbarazzato nel rispondere, perché onestamente non immaginavo che dopo una bella partita così giocata bene entrambe le squadre si potesse ancora così, ecco, dilungare e analizzare praticamente episodi che non sono esistiti. Dico che come uomo di calcio, ancor più che come dirigente della Juventus, dovremmo allenare tutte le componenti, quindi dirigenti, allenatori, calciatori, a una maggiore cultura della sconfitta, che in Italia non esiste, a discapito di una cultura dell'alibi che invece esiste fortemente. Credo che quello che sia importante è anche essere in grado di capire bene quello che succede in campo, però anche riconoscere quando c'è un elemento di sportività e indubbiamente quanto ha detto Marotta sulla capacità dell'Inter a non saper perdere, nonostante dovrebbero avere l'abitudine adesso, è abbastanza stupefacente. Odio la Juve perché hanno sempre vinto per un rigore, per un punizione. Anche Giorgio De Luca, il nostro autore, non ce la fa più. È un plebiscito. C'è Giovanni Capuano oggi qui con me. Insomma, arriviamo stremati, arriviamo alla fine. Anche tu, Gianmarco Ferronato, in regia, non ce la fai più. Abbiamo battuto il record di messaggi prima ancora di iniziare la trasmissione. Davvero, senza neanche dare il numero, 349-238-6666, messaggi e WhatsApp 380024-0024. Non parlerete ancora di Juve-Inter. Ragazzi, avete superato tutti i limiti, siete vergognosi. Fosse per me, non avrei neanche cominciato lunedì, se non per gli aspetti tecnici, Edoardo Lavezzari in redazione. Estremati, ve lo posso assicurare, arriviamo alla fine della settimana di Juve-Inter, quando provi a pensare che l'acqua si stia calmando, che i giochi, che i fuochi si stiano spegnendo, ecco che arriva il Can, come abbiamo sentito nella copertina, ecco che arriva Nainggolan e magari arriverà anche qualcun altro. C'è anche un Pioli in arrivo che sta parlando adesso e Giorgio De Luca l'ha tagliato, lo sentiamo subito prima di interpellare Pardo. No, io non ho riguardato i filmati, io vivo di sensazioni, di opinioni durante la gara. Quello che ho detto fino a gara è quello che erano le mie valutazioni e quelle che sono ancora le mie valutazioni. Quindi è stato in clausura. Ecco Pioli. Per una settimana è stato in clausura. Sì, per una settimana è stato in clausura, però rimangono quelle che sono le sue opinioni. Pierluigi Pardo, ciao! Come va? Bene, guarda, io sto solo aspettando il momento di... Voi siete in malafede, perché voi godete come dei ricci. Non fare così che poi ci credono. Non vi danno più soldi. Soprattutto! C'è un bonus, ogni messaggio che arriva a 10 euro. Di la verità. Però è una buona idea, poi dividiamo. No, tra l'altro io voglio lanciare questa cosa. Quando mandate WhatsApp, allora, facciamo, se dovete scrivere basta, oggi facciamo il concorso con la faccina più particolare, più curiosa, per dirci basta, perché sì, ne stanno arrivando. Ma che cos'è sta roba, la faccina? La faccina più particolare, ma te, ma dai, capuano, ma dai, facciamolo, facciamolo. Ragazzi, la schedina è dopo, aspettate a litigare, ecco. Anche la prestazione per la schedina. Tra l'altro, il vero scandalo della settimana, qual è? Che fortunatamente ho sventato domenica mattina, è che mi avevano assegnato un pronostico falso venerdì. Sì, è vero, vero. Ah, beh, che abbiamo, quindi, chiediamo la moviola anche qui? No, cioè, ho tirato fuori il video della schedina. Abbiamo bisogno della VAR anche per la schedina? Hai perso uguale, no, fra l'altro è stato bello, perché così Capuano ha prolungato fino a martedì l'attesa, mandava i messaggi, il pareggio, il sorpasso, niente. Martedì sera, Roma Fiorentina 4-0, via, rimandato a casa 7-6, è vero, ennesima nitida vittoria. Nitida vittoria. Io non vedo l'ora di arrivare al momento della schedina, ma prima dobbiamo attraversare solo certezza, Pardo. Oggi quanto? Certo. Dichiaralo. Certo, sto vedendo le partite, oggi siamo tra il... Oggi siamo, ma oggi non è facilissimo, siamo tra il 5 e l'8. Siamo tra il 5 e l'8. No, io faccio 7. Tu fai 7. Vabbè, ragazzi. Ma bella, vince l'8. Vi state ad allargare. Comunque, chiaro che i media ci inzuppano il pane, chi più chi meno, in tutte queste polemiche. Tornano le coppe con il loro benefico detersivo, mandando il Napoli e anche Giorgio De Luca, peraltro, a Madrid. Cominciamola così la puntata, celebrando la conquista del biglietto da parte del signor De Luca. Siamo fatti appelli. ovunque, anche a Cairo l'altro giorno in diretta, invece pagandolo regolarmente De Luca ha trovato il biglietto, che poi lui non lo sa, ma sarà falso, quindi arriverà a Madrid. Però anche perché è un signor biglietto, È un signor biglietto, però il biglietto sarà falso e lui però arriverà fino a mercoledì. Non fare così perché sennò mi cade per terra. Giorgino, se è falso non so che faccio. Sfondiamo i cancelli. Ti compro io una tessera in tribuna Posillipo per l'anno prossimo. A mia spesa. Ragazzi, traffico e poi cominciamo a nuotare. Tutti convocati. Tutti convocati. Eccoci tornati con Pierluigi Pardo e Cristiano Gatti sta arrivando al telefono, Giovanni Capuano. No, appunto, stiamo aspettando le coppe, perché con le coppe tutto si allarga un po', no? Cominciamo a vedere orizzonti diversi dopo una settimana come questa, ragazzi. Vero, sì, no? No, ma io sì, però aspetta, perché adesso ho davanti il biglietto che mi ha mandato De Luca. Sì. C'è scritto Real Madrid Napoli, ma in realtà guarda che adesso sto guardando, c'è scritto Stadio Camp Nou. Sì. Camp Nou. Scritto Stadio Camp Nou, UEFA Champions League 2014-2015. UEFA Champions con la CIE. 15-02-2015. Ma 20:45 ora senza l'H, e poi c'è scritto vomitorio 115 e che insomma sembra, sì, non no, lo no. So. Che va spiegato, so, però va spiegato, so. Cos'è il vomitorio, no, c'è il simbolo del palestra, no, il simbolo del palestra, ora interesserà a pochi, po' questa settimana è stata in redazione, è stata durissima perché c'era Giorgio ai limiti della depressione, ma io ho detto ma vai lo stesso, tanto sono giusto per esserci, come fanno gli inglesi, no? Esatto. Per partecipare devi andare. Intanto, dimmi. Posso dire, è veramente, io alla fine non ci vado, quindi sono qua a fare, è veramente una cosa di una bellezza. E devo dire, chiaramente, vabbè, per Napoli è una cosa enorme, ma non solo per Napoli, cioè l'idea che noi andiamo con questa squadra emergente del calcio italiano, che c'è questo calcio magnifico, a giocarcela così con tutto il carico di speranze di questa città, è bellissimo, è veramente. Poi è ovvio, lo sapete, da noi c'è il diritto di gufare chi assolutamente di Napoli, gufi tranquillamente, però assolutamente. Io veramente... non si può gufare contro il Napoli, ecco, no, però, si può fare quello che si vuole, io sono per, vuole, sono però, per il però, diritto al gufaggio. Io invece ti però, così come ovviamente per Roma, Fiorentina, per tutte le italiane, ma ti però con una convinzione veramente speciale, perché credo che sarebbe bellissimo per tutto il nostro calcio, e perché il Napoli è una di quelle espressioni del nostro calcio anche più belle, anche veramente più europee, no? Se questa parola ha un senso sarebbe fantastico. Chiudo il posto e torniamo a parlare di veleni. Sì, ecco, ecco Cristiano Gatti, prestigiosa firma del Corriere della Sera, commentatore in retino grigio, come dico sempre. Ciao Cristiano. Buongiorno a tutti. Senti, non, com'hai vissuto questa settimana? Ti sei divertito? Certo, ma questo è il clima ideale del nostro sistema sportivo, no? Cioè bisogna stupirsi quando le cose vanno via. È clima ideale tanto quanto è ideale il clima che c'è oggi su Milano. Bravo, pioggia, sì. Pioggia, freddo, grigio, tanta voglia di scappare, ecco. Mamma mia, ti rispondo con 19 gradi. È una mattinata passata. No, tu non fai testo, la prima volta che vieni te le do. Sapete qual è il paradosso di tutto questo? Che questa settimana è iniziata con un'immagine che oggi sembra lontana chilometri, che nessuno ricorda. La stretta di mano tra Zanga e Agnelli, che segnava la fine della guerra iniziata nel 98. Sì. Il premium moment, caro Capuano. Io l'altra sera ho fatto gli highlights, e negli highlights di premium c'è sempre la scelta da parte di chi fa gli highlights del premium moment, cioè del momento bello, che può essere un gesto tecnico e può essere anche una cosa, diciamo, extra. E io, candidamente, da ragazzetto naif, ottimista, poco polemico, per natura, avevo messo come premium moment, finalmente, questa stretta di mano, no? Sì. 19 anni dopo, il presidente dell'Inter. Dopo quella è no, ma... E poi quando è andato in onda sto premium moment, era pure un po' ridicolo, cioè, dopo che già c'era stato Pioli, Cesari, Iusa. Sì. Però è vero, hai ragione. Cioè, no, ma tutto Cristiano... era nato come il giorno della grande pace. Ma certo, ma Cristiano, possiamo mandarlo a ripetizione da te, il signor Zhang? No, non sono in grado di dare ripetizione a nessuno. Però ecco, posso confermare, mica per fare il saputo, che io a questa brava gente non credo. Cioè, qui si tratta sempre di chiarire se vogliamo credere alle ipocrisie del calcio o se vogliamo credere, cercare un po' di verità. La vera verità è che questi fanno pace finché conviene, ma poi la vera natura viene fuori sempre da tutte le fessure, no? E allora è molto più credibile la situazione di adesso. Quando fanno le strette in mano a favore di telecamera con tutti bravi a applaudire, a fare clap clap, non è la realtà del nostro calcio. Poi io devo dire che se si resta nei termini di una civiltà appena appena passabile, va anche bene. Tanti teatrini, tante finte fair play, tanto de Coubertin irrorato in dosi così massicce, devo dire che diventa anche fastidioso perché è poco credibile, è finto e recitato. Sì, però c'è anche un punto d'incontro tra il finto de Coubertinismo e insomma è una settimana di veleni. Sì, devo dire però che noi non possiamo credere che Juve e Inter possano davvero andare d'amore d'accordo. C'è qualcosa che stona, che è contro natura. Juve e Inter da sempre sono su due fronti diversi, e non uso fronti per usare il linguaggio bellico, perché altrimenti comunque la realtà vuole che la grande rivalità venga da lontano e che prosegua per sempre. Sì. Allora che poi ci si possa chiaramente ci si possa mantenere nell'ambito di una rivalità diciamo culturale sportiva è fondamentale. Ma è anche difficile. Pierluigi, cosa stavi dicendo? No, stavo dicendo che la mia democristianità quasi si arrende, no? Nel senso che alla fine quasi vacilla, perché poi è vero pure questo, cioè alla fine è chiaro che noi vogliamo sempre, io per natura, per indole, che ci sia il compromesso, che ci sia il rispetto, che non ci sia violenza, ci mancherebbe altro. E quindi, insomma, appunto, scegliamo come premium moment la stretta di mano. Poi però dopo una settimana del genere ti accorgi proprio di una cosa, che questi qua si detestano, cioè non c'è niente da fare. E quindi poi alla fine, giusto o sbagliato che sia, è talmente radicato questo tipo di sentimento, che a patto ovviamente che non si trascenda, e ovviamente chi ha responsabilità dirigenziali dovrebbe avere una maggiore attenzione da questo punto di vista rispetto al semplice tifoso che va allo stadio per sfogarsi, però poi alla fine è pure assurdo bloccare la natura delle persone, cioè non so come dirti, nel senso che poi questo è no, ma poi a me viene in mente, i juventini sono convinti di essere stati vittime di un complotto per rovesciare il loro dominio, e gli interisti sono convinti che la Juve ha sempre rubato. Te l'ho sì, riassunta in due parole. Sì, no? Sì, no, ma è chiaro, ma non tutti, poi, perché poi sappiamo di no, Cerasa, poi c'è Rasa e Travaglio. Parliamo di Travaglio. C'è Rasa e Travaglio. C'è uno per schieramento. Ma poi ci sono anche posizioni più moderate. Io credo che onestamente gli juventini in certi momenti sicuramente qualcuno avrà anche preso delle distanze. Gli interisti comunque in certi momenti si sono resi conto che magari un eccesso di vittimismo poteva essere controproducente. Cioè ci sono poi delle posizioni intermedie. Però poi di fondo la natura vera è quella là. Sì, però guarda, io fossi stato nel dottor professor Elkan, quella me la sarei risparmiata ieri, non so. Ma tu sì, Cristiano, perché è un modo per però non se la risparmia, è ovvio che razionalmente poteva risparmiarsela, non c'è nessun dubbio, però non se la risparmia. E dici, vabbè, non se la risparmiata perché c'era il video dell'Inter pubblicato due giorni dopo dal canale tematico. Ma allora anche l'Inter poteva risparmiarsi quella cosa, ma non se l'era risparmiata, perché evidentemente si è sentita presa in giro. E quindi, capito, è tutto un meccanismo a ritroso, ed è difficile. Cioè, è il palio di Siena. È il palio di Siena con degli elementi, ovviamente, poi, della storia, della cronaca del nostro paese, anche dal punto di vista, ovviamente, delle sentenze del giudice sportivo con Inter e Juve schierate da due parti opposte, perché in tutto questo, ribadisco, interisti la pensano in un modo, i juventini si sono sentiti defraudati negli anni di Calciopoli. Cioè, sì, non è sì, sì, ma adesso non stiamo a tirare fuori di nuovo queste storie, Ceccarini, eccetera. Talmente opposti. Ma mi è sembrata inconciliabili. Inconciliabili. Cristiano Gatti, cosa ne pensi tu su questo ragionamento, sulle parole di Elkan e anche sul comportamento dei media in questa vicenda? Carlo, scusa, guarda, posso parlare da persona neutrale, non da casco blu, perché io non voglio portare la pace da nessuna parte, la pace si fa spontaneamente, non si può imporre, ma al di là di quello, te lo dico da persona neutrale, perché io tengo per una squadra di provincia, per cui ti giuro, per noi poveracci costretti a giochicchiare, a raccogliere le briciole, sentire gente come gli juventini, come gli interisti, ricorrere al vittimismo, è veramente uno scandalo. È come sentire due contesse a Forte dei Marmi che si lamentano per il prezzo del caviale. È un po' che noi quello che siamo scrive... abituati a pane e fagioli, fa veramente incassare questa cosa. Loro che addirittura parlano di un po' quello... guarda, il caviale non puoi capire. Il caviale mi è arrivato a un prezzo incredibile. Il governo dovrebbe fare qualcosa. No, ma Cristiano, è un po' quello che scrive oggi Sconcerti sul tuo giornale, no? Cioè, sono due ricchi che litigano. Capito. E addirittura, ti ripeto, io non trovo proprio nulla di... finché si resta e bla bla bla bla nei termini di un confronto, cioè, non trovo proprio nulla di scandaloso che i due non si sopportino. È la storia del nostro sport, del nostro calcio, per cui... Elkan, certo che poteva star zitto come tante altre volte, non è che Elkan abbia mai brillato per battute felici. Ecco, ma al di là di quello, se non era questa uscita, era un'altra, questi stanno andando avanti da che c'è la storia del calcio a lanciarsi queste bordate, ed è stupido pensare che invece possono essere è nelle regole del gioco, sì. Le dobbiamo accettare, e secondo me non dobbiamo neanche fare una questione di Stato. Poi siamo sempre lì, i presidenti li conosciamo, nell'epoca, scusa se divago appena, ma rientra nella filosofia, no? Nell'atmosfera, e hai visto che nell'epoca della modernità, dei grandi manager nel calcio, la Lega pensa a una soluzione per far più soldi, per andare avanti, e cosa pensa? Pensa a Veltroni per fare il presidente della Lega, la soluzione, sai, del politico che ci crea le aderenze giuste, che è una roba di 30-40 anni fa, ma a me sembrava di essere tornati sulla macchina del tempo, no? Per dirti ricchi non vuol dire per forza saggi. No, quello no, quello no, Cristiano. Non anzi. Grazie Cristiano. Esiste anche una battaglia del popolo. Grazie Cristiano Gatti. Il D'Artagnan del giornalismo sportivo italiano, ha scritto un amico Buddy al 349-238-6666. Oltre che un amico, un grandissimo Cristiano Gatti, non lo dico solo mi per sono dimenticato di chiedergli, di girargli un altro messaggio di un amico che chiedeva se ricordava qualcosa degli scazzi tra Agnelli, l'avvocato e Prisco. Ma sai, erano in qualche modo diversi, sì, ma anche il comportamento dei media era diverso. No, ma sono in tanti che lo stanno scrivendo. Però ecco, questo quello che hai detto sui media è fondamentale, i media, social network, c'è anche questo elemento qui. Cioè io ho 42 anni, ancora per poco, ho 43, mi ricordo, Agnelli e Prisco era veramente roba altissima, sopraffina, però Agnelli e Prisco erano più era veramente prima Repubblica nel senso più... Nel senso più nobile del termine, nel senso più nobile del termine, Pierluigi. Ci fermiamo per la borsa, torniamo subito. Tutti convocati. Sono Enrico Ruggeri, oggi al Falco il Gabbiano una storia terribile, la storia di Bobby Sands e del suo sacrificio in nome della causa irlandese. Vi aspetto alle 15.30 al Falco il Gabbiano su Radio 24. Fineco, la banca che semplifica la banca, vi presenta. Tutti convocati. Luca, grazie per l'attesa. Lorenzo da Torino e Dauro da Milano, 800240024. Pierluigi Pardo collegato, Giovanni Capuano qui con me per riassumere la situazione. Lorenzo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Niente, pensavo che esistesse la vergogna. Dopo le dichiarazioni di Elkan, penso che non esista limite al peggio. Ho sentito prima, mentre aspettavo, i vostri interventi mi sembravano anche in questa direzione, al contrario di tutte le stupidaggini che ha scritto Tutto Sport in questa settimana, per esempio. Ma una soluzione ci sarebbe. Siccome i signori Elkan e compagnia bella non vogliono pagare le tasse in Italia, ci portino anche la Juventus in Olanda. Cosa ne pensate? Cosa ne pensi? Anche la Ferrari. Anche la Ferrari in Olanda. La Fiat la lasciamo a Torino. No, abbiamo un'invocazione. Io capisco questo è un punto di vista. Intanto se ce l'ha con Tutto Sport, chiama Tutto Sport e no, si lamenta lì. Esatto. Questo non è il posto giusto. Ma io ti dico, però, questa roba qui, come dicevo prima, è risolvibile, nel senso che non c'è una parte che si sente vittima e l'altra parte che si sente carnefice. Cioè, dopo il 2006. E tutti si sentono vittime, perché gli intrisi si sentono vittime perché pensano che ripeto, generalizzo. No, ma se vuoi ti leggo qualche messaggio che fa da sintesi. C'è chi scrive: la storia dell'Inter è il triplete, la storia della Juve sono Moggi, Giraudo e Bettega, oppure da tifoso juventino ringrazio l'intelligenza interista che mi fa godere sempre per una settimana le vittorie su di loro. Sono queste le cose, poi si tirano fuori insomma, allora, prescritti, allora cartoni. Lo invoco io Giannino. Basta! Dauro da Milano. Buongiorno. Buongiorno. Io sono un tifoso del Milan e volevo fare una considerazione su Donnarumma, della quale ovviamente gradirei avere il vostro parere. Di questo ragazzo si parla tantissimo, giustamente, relativamente alle sue grandi parate, eccetera, eccetera. Invece, secondo me, quei dettagli che possono dare la cifra, se vogliamo, di quello che potrà diventare, perché quello che non è ancora, ma che potrebbe diventare come portiere, sono altre cose. Per esempio, l'uscita che a Bologna lui ha fatto, mi pare, su Krajcik. Sì, nel primo tempo. Sì. Esatto. Se io penso alla grinta, alla quasi ferocia con la quale lui e i suoi quasi 2 metri si sono buttati nelle gambe di quell'avversario, mi ha fatto impressione, perché mi fa pensare che lui appartenga a quella genia di portieri che con la loro imponenza, con la presenza fisica, con il piazzamento, si dice facciano passare agli attaccanti la voglia di tirare in porta. Sì, cioè, si è detto molte volte di Buffon. Si è detto molte volte di Buffon. Siano quei portieri, bravo, che ti intimidiscono. Uh-huh. E quella, secondo me, è una più della grande parata, perché tanti portieri hanno fatto grandissime parate e non sono diventati numeri uno al mondo. Bella considerazione, perché in questo momento ciò che sorprende di più di Donnarumma è proprio questo. Poi commette anche degli errori, dei peccati di gioventù, no, eccetera. La personalità, che poi esatto, una parola è la personalità, è indefinibile, però è tutto. Penso a un altro esempio in un altro ruolo, di uno che quest'anno mi sta impressionando da pazzi, che è Chiesa. Chiesa è un giocatore, ha fatto anche brutte partite, per carità, però è un giocatore che ti dà l'idea, considerata l'età, di avere proprio quella cattiveria, quella, insomma, qualche volta anche quella consapevolezza nei suoi mezzi. Chiamiamola consapevolezza, che poi alla fine fa la differenza, perché come ci dice Arrigo Sacchi, è più facile certe volte allenare un corpo che allenare un cervello, no? Ah, sicuro. Sì, poi è chiaro che il talento ce lo devi avere e il corpo ce lo devi avere, quindi questi sono i due punti di partenza. Ma la cosa più difficile è allenare la testa. Nel ruolo del portiere questo è doppiamente vero. Io credo che la cosa più sana da fare sia non farlo troppo, non dare ruba nei limiti del possibile. No, però difenderlo, perché al primo errore viene comunque messo in discussione, no Giovanni? Lo sappiamo anche noi la domenica quando siamo qui. Invece ha diritto di sbagliare, perché è anni luce avanti con precocità. Io mi ricordo il caso di Scoffet che secondo me mi sembra altra roba, però ricordatevi come se ne parlava, e secondo me forse lì c'è stata troppa pressione. Quindi io penso che Donnarumma sia destinato a un futuro luminosissimo, e certamente l'elemento della personalità, che poi in qualche modo si viene anche raccontato simbolicamente dal suo fisico, dei suoi 2 metri, è il vero segreto, insomma, No, ma infatti deve essere, come tutti i giovani del Milan abbiamo detto molte volte, devono essere difesi e fatti deve giocare. Poter sbagliare deve e deve poter sbagliare essere protetto da tutti, compreso chi ha magari interesse a monetizzare o tante altre cose. E secondo me va anche difeso dicendo le cose come stanno. Ad esempio l'altra sera a Bologna, il primo tempo di Donnarumma, al di là di quella uscita che ha ricordato giustamente l'amico da casa, non è stato straordinario, l'ha sporcato con alcune imprecisioni. Poi però nel secondo tempo, in quel momento emozionale altissimo che è stato il secondo tempo del Milan, è uscita una prestazione da portiere fatto e finito. Allora, andiamo sul Napoli che sta volando, metaforicamente, adesso gioca col Genoa. Guai a dirlo a Sarri, che sta volando verso Madrid. Guai a dirglielo a Sarri. È la vigilia di Napoli-Genoa, però in città si parla tantissimo. Basta, non andare dopo il però, perché marzo vado qui. O si parla di Napoli-Genoa o si parla martedì. Sì, infatti ti volevo parlare di Napoli-Genoa. Siamo 11-11, andiamo a divertirci, ci sbattiamo il coglione, uno contro uno, difendiamo bene, diamo tutto quello che possiamo e quello che succede, succede. Se fai troppi pensieri sicuramente non va bene. No? Non è difficile se i giocatori riescono a estraniarsi da tutto e da tutti e pensano esclusivamente a questa partita. Dobbiamo preparare benissimo questa partita. Perché come sempre succede a Genoa, è una partita difficile. Quando vado a vedere una partita di calcio vado a vedere Napoli. In tutti i sensi, giocano bene, difendono bene e hanno grandi talenti. Questi erano Sarri e Juric alla vigilia. Però il Real Madrid, che è uscito dalla porta, è stato spinto fuori dalla porta dei pensieri di Sarri, rientra con De Laurentiis. Che titolo diamo? Lei è molto fantasioso alla super sfida Real Madrid-Napoli. Sfida infernale. Ma io dico che più è difficile una competizione e più l'impegno, l'amor proprio, la considerazione delle proprie capacità e poi di essere squadra e poi di giocare in un modo completamente diverso, perché Sarri, bisogna dargli atto che ha impostato un gioco che molti ritengono unico quasi in Europa. E quindi voglio dire, se i nostri saranno fermi e coscienti di questa capacità di gioco, di avere questa linea alta, di non permettere le ripartenze agli altri, secondo me ce la potremo giocare alla pari. Piero Luigi Pardo, Giovanni Capuano, c'è in linea un signore che penso conosciate più o meno, Don Raffaele Auriemma. Buon pomeriggio. Non si voleva parlare del Real nella domanda. Non si voleva, per carità. Che temperatura c'è? 24. La temperatura a Napoli oggi direi che è sopportabile, c'è quel caldo gradevole. Ma poi stasera non lo so, ma sicuramente con i 40.000 al San Paolo, seppur dovesse far freddo, certamente sparirà all'improvviso. Freddo. Io vi odio da Milano. A Piano Gentile nevica. A Piano Gentile nevica. Ragazzi, vi odio. Con tutto l'affetto dipende vi nella vita. Vi detesto. Sono in uno stato, scusa, certo, ma sei un amico, te lo devo dire. Io sono in uno stato di estasi. C'è la finestra aperta, ci sarà un 18-19 gradi. Ma dove sei? A Roma. Quindi immagino che anche a Napoli, insomma, Io cordialmente vi detesto. Scusa, no, volevo dirti questa cosa, capito? Perché c'è quel venticellino, quella brezzolina. traffico subito. Tutti convocati. Tutti convocati. No, ma che poi riflettevo, Giovanni Capuano, anche noi qui a Milano non stiamo mica male, no? Cioè, piove, c'è brutto, ci sono 3 gradi, da Piano Gentile nevica, però poi noi usciamo e abbiamo i teatri, abbiamo i cinema, mica come a Napoli, no? Certo. O a Roma, no? Dove hanno il mare, a Napoli, il mare. Noi andiamo direttamente al drive-in stasera, magari. Ragazzi, no, fuori, non per farvi invidia, non so se mi sentite, ma io in questo momento guardo Capri da casa mia. Abbi pietà, Auriemma, abbi pietà. Solo, no, ma abbi, per dovere di cronaca. Abbi pietà, se no faccio come Mughini. Dai. Ma magari venisse qui, lo porterei in giro, sai come mi divertirei in giro per Napoli con Mughini. Ragazzi, ma guarda che adesso l'organizziamo questa cosa. Sì, l'organizziamo. Ma tu lo sai che Mughini viene in vacanza a Ischia, quindi quello che lui fa, quel teatro che fa in TV, è tutto falso, lui ama. No, era quella, ci riferiamo a quella roba lì, era veramente il classico, certo, ma no. Detto questo, confermo che viene in vacanza a Ischia. Vieni, ragazzi, va bene. Ragazzi, a tutti e 3 giro queste 2 considerazioni e poi andiamo, saluto Raffaele Arrema, andiamo con la schedina. Allora, una partita come quella del Real con Real Madrid, per quanto Sarri dica mi alzo e me ne vado se mi nominate solo il nome del Real, a proposito, inciso, appena fatto la conferenza stampa Zidane, nessuna domanda sul Napoli, penso fosse un'imposizione dell'ufficio stampa del Real Madrid, gli è stato chiesto invece il risultato di Paris Saint-Germain-Barcellona. E lui cosa ha risposto, Capuano? Che non gliene può fregare meno. Osserva l'immensità del cavolo che me ne frega. Comunque, detto questo, una partita come quella con il Real Madrid non può fisiologicamente non essere nella testa di Sarri e dei giocatori. Da Sarri, altra considerazione, ci aspettiamo null'altro a Madrid se non il Napoli, quello vero, punto. Auriemma, ma magari il Real Madrid veramente non sta pensando al Napoli, magari lo sottovaluta e scende in campo un po' rilassato, a quel punto potrebbe essere a tutto vantaggio di questa squadra, che però per dimostrare di meritare la tesi di laurea al Bernabeu dovrà superare l'esame di maturità questa sera. Perché maturità? Perché il Napoli contro le cosiddette piccole purtroppo pareggia tanto spesso. Il Genoa fa parte di questa schiera a cui possiamo anche elencare il Pescara, il Sassuolo, il Palermo, tutte formazioni che hanno tolto punti al Napoli, e questo pesa poi in termini di classifica e di crescita nell'autostima del gruppo. Se stasera il Napoli lo vedremo cazzuto, corroborato, con pochi cambi, perché è importante anche questo, pochi cambi, allora superando il Genova andrà a Madrid con una motivazione. Ma sta fuori ancora Pavoletti? Fuori dal primo minuto secondo me sì, ma è anche giusto. Mm-hmm. È anche giusto, perché se tu hai impostato la squadra con i 3 attaccanti di movimento e non hai Callejon, se metti Pavoletti è come se sostituissi 2 calciatori nel reparto, e cioè Pavoletti al posto di Callejon fisicamente, e Mertens che dovrà adattarsi a fare l'esterno. Ne vale la pena. Stiamo dando per scontato ormai che Mertens è un centravanti, e quindi Pavoletti è il terzo. Considerando anche in questo momento, è così. Allora, io penso quello che farebbe Allegri. Quello che farebbe Allegri è semplicissimo. Poi non vuol dire che ognuno c'ha il suo stile. Secondo me, voglio dire, fai turnover. Quale migliore occasione hai? Comunque, un esterno che è squalificato, un giocatore, Mertens, che sta facendo cose straordinarie da attaccante, ma nasce esterno. Secondo me, potrebbe tranquillamente dare una possibilità a Pavoletti. Poi è ovvio che al Bernabeu vai con tre piccoli, non c'è il dubbio. Detto questo, vedremo. Poi Sarri è un allenatore invece che ha un approccio, e funziona pure quello, ha un approccio molto, molto conservativo sui cambi e sulle rotazioni. Tante volte l'abbiamo visto, un allenatore che va avanti, che fa periodi, c'è un giocatore magari in un certo momento che vediamo sempre, poi scompare dai radar perché viene sostituito da un altro. Da questo punto di vista è molto meno scientifico nella turnazione degli uomini. Lo scorso anno perché ne avevo oggettivamente di meno, quest'anno un po' di più la fa, però comunque non è il suo stile, ma perché dai, è rispettabilissimo, e i risultati comunque sono molto, molto positivi. Sono totalmente d'accordo con Pierluigi che senza essere Allegri io farei ancora di più. Io metterei in campo Giacchierini e Pavoletti, tenendo a riposo Mertens e giocando con Insigne. Così non, sì, ma non hai parlato, scusa tanto. Raffaele, ma non hai parlato di esame di maturità di questa sera? Sì, ma questa è una cosa che stiamo parlando sotto il profilo tecnico. Ecco, la squadra, se è abituata a giocare in un certo modo e non può snaturarsi, fa bene Sarri a continuare con questo modo. Perché se lui dice io metto Pavoletti e dobbiamo giocare in maniera diversa rispetto a quanto fatto negli ultimi 4 mesi, rischio di creare un cortocircuito nei meccanismi della squadra. Questo è il ragionamento di Sarri. Comunque Allegri che avete citato, a Crotone ne ha cambiati 5. Certo. Sì, ma anche stasera ne cambierà 4 Sarri, non è che ne cambia uno. Però se tu certifichi, e secondo me questo è un errore anche perché sta per rientrare Milik, e il Napoli inizialmente era pensato così, poi è vero che Mertens sta facendo dei numeri incredibili, però se tu certifichi che neanche in questa situazione la punta centrale è Mertens e non la puoi spostare perché vuol dire snaturarlo, secondo me magari ti va benissimo in assoluto da qui alla fine della stagione, però lanci anche un messaggio un po' pericoloso, cioè finisci che ti limiti. È così? Io sono d'accordo, perché noi non dobbiamo dimenticare che il Napoli qualche punto ha perso dopo l'infortunio di Milik. È vero che non era ancora esploso Mertens in quel ruolo ed è ovvio che poi ha fatto invece delle cose strepitose, però io sono portato invece a pensare che comunque sia una punta centrale di serva, e in certe partite, in certe situazioni, questo è ancora più vero. Secondo me c'è una partita recente che è quella col Palermo, dove al netto della sfiga, perché poi io ho parlato di sfiga, quando in tutte quelle occasioni c'è una componente anche di porta stregata, però un attaccante con quelle caratteristiche, secondo me, un po' prima sarebbe può sparigliare. Può sparigliare. Insomma, se sei sotto 1-0, può sparigliare. Raffaele? Ogni tanto un cross nella vita. Sì, Mazzarri deve imparare ad essere un po' più laico rispetto al suo integralismo. È vero, col Palermo sarebbe stato preferibile mettere Pavoletti, perché con la difesa chiusa Mertens è difficile che tocchi un pallone. Negli spazi ampi, al Bernabeu, sì. Allora, se il Napoli riuscirà a cambiare pelle durante le gare, oppure preparandola in maniera diversa, allora lì ci sarà la crescita definitiva. Intanto che non c'è, meglio affidarsi al sistema che dà le maggiori garanzie. Grazie Raffaele, grazie, un abbraccio. A voi, un abbraccio forte. Ciao. Grazie Raffaele Aurelio. Ciao, grazie. Siamo, È il momento che aspetta. Prego registrare. Non sbagliamo i conteggi, non sbagliamo i numeri. Pronto anche il notaio. Via. Napoli Genoa questa sera. Facciamo una per uno, diciamo prima. Allora, parto io, dai, io dico dai. Uno. Domani Fiorentino Udinese, unico anticipo. Uno anche per me. Crotone Roma. Io dico 2. Un attimo che cambio pagina. Inter Empoli 1. Fin qui sono tutti uguali. Siete noiosi come guardare l'erba che cresce. Palermo Atalanta 2. Due. Sassuolo Chievo X 1 Torino Pescara 1 1 Sampdoria Bologna adesso... questa è fatta dai io diverso da lui fate la voi croce di Pardo ed è pur giocare a Sampdoria X 1 Cagliari Juventus domenica sera dai 2 2 e infine la coda del lunedì Lazio Milan 1 è 1 anche per me ecco. Questa è la schedina, ragazzi. Ne parliamo... Quindi praticamente sono tutte uguali, se la giochiamo su Sassuolo, Chievo e Samp Bologna. E Samp Bologna, dai. Quindi un bel 7 a 5. Infatti tu avevi detto tra il 5 e l'8, io ti ho detto 7, è perfetto. 7 a 5. Sì, per me però. Per me. Pareggio di Gobbi al 92esimo, colpo di testa di Dainelli per il 2-2 finale. Ciao Pier, ci sentiamo domenica. Posso dirvi che se noi pareggiamo? Pareggiate, vabbè, sì, siete stati noiosissimi, cioè neanche un guizzo di fantasia. Ciao ragazzi, ciao Pierluigi, no, ciao, che poi non lo tengo. GR, torniamo. Tutti convocati. Tutti convocati. Vuoi andare all'estero per lavorare, studiare o semplicemente per cercare opportunità che in Italia non trovi? Le dritte giuste, i paesi giusti, i lavori giusti, ve li forniamo noi ogni sabato su Radio 24. Le storie di chi all'estero ce l'ha fatta e ci indica una strada da seguire. Sono Sergio Nava, vi aspetto tutti i sabati alle 13.30 con Giovani Talenti. Il segnale orario vi è offerto da... Iperceramica, prezzi super, qualità iper. Miau. Dunque, l'avete sentito anche nel GR, stiamo ancora aspettando medaglie dai mondiali di sci, perché alla Goggia non è andata bene. Prima al termine della prima manche, in discesa libera, inforcata dopo 6 porte della seconda prova. Clamoroso infortunio a Lara Gut, che dopo aver chiuso terza prima manche si è fatta male a un ginocchio in maniera... pare seria nella seconda, ha vinto la svizzera Höldner, migliore delle italiane Federica Brignone, solo settima. Sentiamo Sofia Goggia. Ma no, chiaro che non è finito il mondiale, c'è amarezza però per come è andato lo slalom. La prima manche di discesa non era male, slalom sono uscita dopo 6 porte, non ho neanche quasi avuto tempo di realizzare che fossi in gara, quindi... c'è amarezza e è andata così. Dunque così è andata. Giovanni Capuano qui con me in studio, Mirko da Milano, buongiorno. 800240024, ricordo il numero verde. Niente, io volevo intervenire sulla diatriba tra Inter e Juve. Se avessimo una federazione rispettabile sarebbe facile finire tutta questa storia. Multe salatissime alle società e ai tesserati, perché questi signori, se li tocchi nel portafoglio, poi imparano a non parlare più sia in campo che fuori, e sarebbe facile finirle, secondo me. Guarda, io non lo so se questa è la soluzione, però noto, e poi faccio un parallelo su una cosa capitata nel basket proprio in questi giorni, che gli unici a essere stati zitti sono stati quelli delle istituzioni. Il paragone con quello del basket è questo: domenica sera Torino Capodorlando, gara di Serie A, c'è stata una chiamata contestata all'ultimo secondo, Capodorlando ha vinto di un punto e insomma è finita con delle proteste. 24 ore dopo il capo degli arbitri della federazione ha fatto un comunicato dove ha spiegato punto per punto, regolamento alla mano, perché quel fischio, o meglio, perché quel mancato fischio che aveva fatto arrabbiare, era finito anche sui giornali. Insomma, capisco che il basket sia un mondo più limitato, diciamo, dal punto di vista dell'impatto rispetto al calcio. E poi ognuno resta della sua idea, magari ci sono ancora tifosi convinti che quegli arbitri abbiano sbagliato. Però così si è tolto anche molto veleno a quella vicenda. Noi in una settimana gli unici che non abbiamo sentito parlare sono stati gli arbitri, o quantomeno quelli che gli arbitri rappresentano. Fabio, provincia di Lecco, sì, ha ragione Giovanni, perché Nicchi poteva far sentire la sua voce, no? Soprattutto dopo il frastuono mediatico, che è stato molto importante, mai così importante come in questa occasione, con, non lo so, insomma, è inutile nascondersi, la Gazzetta dello Sport che ha pubblicato, che ha dato grande risalto al, al post Juventus-Inter, molti media hanno dato grande risalto al post Juventus-Inter, altri invece si sono... hanno scelto una via più, più defilata. Non ho mai notato un contrasto così stridente, ma sarò distratto io. Fabio, buongiorno. Pronto, buongiorno, ascolti. Ascoltate, interista, non tifoso. Prima cosa, nessuno dei tre episodi mi sembra così eclatante. Secondo, io ho visto Allegri che allo stadium, lo stadium, in vantaggio 1-0, toglie due punte e mette un centrocampista e un difensore. A me basta questo. Da interista, non tifoso, sento, mi sento orgoglioso di aver fatto paura alla Juve. Quest'anno sono più forti, l'anno prossimo non si sa. Se continuiamo a fare i piagnoni, non costruiremo nulla. Partiamo dalle cose positive. Non credo che sarà capitato spesso, perché voi potete verificarlo, che una Juve in vantaggio in casa sua 1-0 difende un risultato. Io partirei da questo, il resto sono tutte mi chiacchiere. Allineo, mi allineo insieme al direttore del Foglio, che è stato nostro ospite ieri. Magari non è stata la prima volta. Però l'Inter ha perso un'occasione domenica sera, cioè quella di valorizzare una partita comunque importante, come del resto avevano detto gli stessi juventini, perché Allegri aveva parlato di un livello da semifinale di Champions League, magari l'aveva enfatizzata troppo, però è vero che domenica sera è stata una partita che la Juventus ha vinto meritatamente, ma nella quale, come forse mai in casa, in campionato, nell'ultimo anno e mezzo si era trovata in difficoltà, anche fisica. A me ha stupito, sì, vedere Mandzukic in difficoltà fisica un quarto d'ora, sì, alla fine. Mandzukic sta andando tantissimo. Io mi domando quanto possa tenere questi ritmi e questi livelli pazzeschi. Più che altro a me ha sorpreso, non in maniera positiva, ti dico la verità, l'uscita di Pioli, proprio per la ragione che stava dicendo l'ascoltatore subito dopo la partita. Cioè non avrei insistito su quell'argomento. Vabbè, insomma, a caldo ognuno la prende. Diamo due notizie. La prima è che il derby di Roma torna in notturna. Torna in notturna, capita il 1 marzo, semifinale d'andata della Coppa Italia. Lazio-Roma si gioca alle 20:45. C'erano state pressioni della RAI che ha i diritti per una partita che farà un ascolto molto alto. Però, insomma, dopo anni il derby di Roma torna in notturna ed è un ulteriore passo verso quella normalizzazione e di tutto ciò che accade dentro e intorno allo stadio olimpico. L'altra notizia è che è ufficiale l'infortunio di Romagnoli, è una lesione al flessore della coscia destra, e quindi insomma Romagnoli salterà qualche settimana di campionato. Allora, andiamo per un altro flash di cronaca, una cronaca che sarà da scrivere, cioè quella di Italia-Irlanda di rugby, secondo appuntamento con il Sei Nazioni domani a Roma Olimpico. Ciao Giacomo Bagnasco. Ciao Carlo, io sono già all'Olimpico, mi sono portato avanti. Ti sei portato avanti con i lavori. Sai, l'ultima vittoria interna dell'Italia nel Sei Nazioni risale al 2013, proprio con l'Irlanda. Allora vedo se è possibile fare qualche rito e insomma dare una mano, a parte gli scherzi, insomma, contro una formazione irlandese che ha perso dalla Scozia al termine di una bellissima partita nel primo turno, ma che è sicuramente favoritissima contro di noi. Basti pensare che l'anno scorso ha battuto in campo neutro gli All Blacks, in Sudafrica il Sudafrica e in casa l'Australia. Mi sembra che questo dia già il livello di quanto, di dove è collocata l'asticella per la squadra italiana, che fa diversi cambi e che deve comunque cercare di progredire soprattutto sul piano della continuità nell'arco della partita. Formazioni, nessuna novità, no? Sappiamo, c'è qualche da ieri. Novità, non diciamo niente di eclatante, però qualche novità sì, c'è Ghiraldini che torna tallonatore titolare al posto di Jega, in seconda linea Van Schalkwyk recuperato al posto di Biagi, in terza, molto importante a mio avviso, il rientro del guerriero Simone Favaro, e poi all'ala c'è Esposito che gioca al posto di Bisegni. L'ossatura però in buona parte è la stessa. Pariste si trova di fianco due grandi combattenti in terza linea e da combattere ci sarà di sicuro. Perfetto Giacomo, grazie. Grazie. Ci sentiamo domani, no, domani, sentiamo con il GR e domenica certamente in tutti i convocati weekend. Matteo Turrini, buongiorno. Buongiorno maestro, sono fermo sulla Pero Corbalo. Dietro a? No, ci sono decine e decine di modelli Fiat Chrysler abbandonati lungo l'autostrada perché sono tutti cinesi che dopo quello che ha detto John Elkann hanno deciso per solidarietà con Zhang di abbandonare i modelli, hai capito? Della casa di Detroit e di Torino. Vedo proprio qui davanti a me i cinesi sulla Pero Corbalo che buttano le chiavi delle Jeep, delle Multipla, delle Punto, non vogliono più guidare. Bel colpo questo di John Elkann, si è giocato un mercato di 1,5 miliardi di persone, ma ci rendiamo conto. Tu dici. No, noi avevamo convocato Leo, perché era uno dei pochi che insomma non parlava della vicenda Juve-Inter. Ma no, ma Turrini, io stavo parlando semplicemente di un dato di fatto, no, la Cina. Io volevo partire dal finale del fondo di Leo Turrini di oggi sul Giorno, io lo leggo dal Giorno su Quen. Quanto a John Elkann, sono orgogliosamente tra quelli che in famiglia preferivano il fratello Lapo, giustamente juventino anche lui, non ho cambiato idea. Così scrive Leo Turrini. Beh, è la mia opinione, penso che sia da rispettare come quella di tutti, come quella di John Elkann a proposito degli interisti che non sanno perdere, o quella dei cinesi che non comprano più Fiat. No, adesso al di là delle battute, insomma, io penso che è anche il bello poi, il sale, come si dice, dello sport, del calcio. Sì, ma al sale c'è un limite, sennò poi la pasta diciamo diventa da buttare. Va avanti un po' da troppe ore, da troppi giorni. Io francamente penso che quello che ha detto ieri il presidente della Fiat sia stato francamente fuori luogo. Sì, sì, anche perché poi scusa, adesso capisco che Radio 24 eccetera scusa, c'è Confindustria, ma la Fiat è uscita da Confindustria a suo tempo. No, ma al di là delle battute, voglio dire, mi rendo conto che si parla di passioni popolari eccetera, ma in fin dei conti quelli dell'Inter si erano lamentati dell'arbitro, non della Juventus, hai capito? Per cui se risponde l'AIA, se non è zuppa è pan bagnato, ma sì, ma però al di là del merito, scusami, se non è zuppa è pan bagnato, Leo Turrini, se risponde chi rappresenta la situazione degli arbitri, va bene, perché io debba rispondere, però ripeto, va bene, insomma, dai. Io ho scritto queste cose, il mio amico Linus da Juventino ne ha scritte di esattamente opposti, ci vogliamo bene più di prima, solo che io vedo qui sulla Pero Corbalo tutte queste Fiat che vengono abbandonate dai cinesi indignati che scendono e restituiscono le chiavi agli autogrill, hai capito? Sì. Vogliamo parlare di Vettel? Parliamo di Vettel. Parliamo anche di Vettel, cui tu hai dedicato una poesia che io ho sotto mano. Peraltro. Io ho scritto una poesia? Sì, ho scritto una poesia su Vettel. Dimmi. Non si finisce mai di imparare. All'improvviso ho capito, nemmeno ho avuto bisogno di vedere Seba andare a sbattere. Ero già andato via, le cose brutte non piacciono. Ero inseguito dai ricordi, dalla memoria, stamattina, Ponte dei Sospiri, non a Venezia, a Fiorano. Sotto il ponte in pista c'era Vettel che sperimentava una vecchia rossa, su una vecchia rossa i gommoni da camion. Versione bagnato. Stavo lì e mi rivedevo 40 anni fa e passa. Perdonami, non sono un grande lettore. Che quartina, eh? Non sono un grande lettore di poesie, faccio schifo a leggere. Perdonami per il fatto di deturpare. Io ci provo, Poi ci vedo, non ci vedo neanche bene, non ci vedo neanche benissimo con l'età. Farò avere gli occhialini. Ne ho bisogno. No, io ho scritto questa cosa ieri sul mio blog Profondo Rosso perché ero andato a vedere questa esibizione di Vettel che sperimentava le nuove gomme da bagnato della Pirelli, no? Sì. E naturalmente, siccome io come te appartengo al club Escape from the News, fuga dalla notizia, me ne sono andato dal ponte che sovrasta il circuito 5 minuti prima che Seb andasse a sbattere rovinosamente, hai capito? Poi però, come dice il testo, l'ho saputo da amici che erano lì, e potremmo dire in una maniera quasi scaramantica, A, il buongiorno sia dal battino, B, una partenza col botto e poi fermami perché potrei proseguire con i luoghi comuni fino alle 5 del pomeriggio. No, è stato un peccato perché comunque anche se si trattava della verifica di un prodotto nuovo sarebbe stato meglio riuscire a girare. D'altronde, come direbbe John Elkann, chi è poi il presidente della Pirelli? Tronchetti Provera, per chi fa il tifo? Per l'Inter. Questi manco sanno fare le gomme, hai capito? E sempre li torniamo, ci fermiamo, capito? No, comunque, Sam non si è fatto nulla, però l'auto è andata distrutta, tanto è vero che oggi a Fiorano doveva girare Giovinazzi, che è la riserva del santo bevitore di Seb, ma il telaio non era riparabile e quindi si è persa una giornata di collaudio. Senti, ma il tuo amico Pioli non si è per caso pentito, non ti ha scritto un SMS scrivendo beh, però forse era meglio se gli arbitri non parlavo subito dopo la partita? Ma insomma, vedo che tu dici ti chiamo, parliamo della Ferrari e poi dopo poi sei tu che vai a Tronchetti Provera, mica io. Io penso che se noi vediamo le cose con un distacco minimo che purtroppo non appartiene nemmeno a me, domenica scorsa abbiamo visto una partita molto intensa, vorrei dire anche bella, fra due grandi squadre. La Juventus è una grandissima squadra. Ci sono stati alcuni episodi che per chi è interista, e quindi Pioli per primo, e lui l'ha dimostrato in televisione, sono stati di difficile comprensione. Poi però voglio dire, ha ragione anche il mio amico Linus quando dice ma se la Juventus è prima in classifica da 6 anni, non è che ci si possa poi, hai capito? Ecco, io penso che ci vorrebbe forse da parte di tutti un tratto di leggerezza in più, anche quando si fanno riflessioni a caldo o a freddo come quelle di John Elkann, perché non sono poi cose che non servono, ecco, che non servono nel senso che non sono utili a nessuno, secondo me. A me è piaciuta molto la risposta di Zhang, che hanno dato ieri sera, no? Ma noi non parlavamo di loro, noi abbiamo la nostra storia, fine, cioè. Sai, anche per lui sarà meglio andare a ripetizione. Ma sì, ma voglio dire, tutte queste cose qui sulla Fiero Cormano, i cinesi abbandonano le auto del gruppo Fiat. Marchionne già aveva il dispiacere di Vettel che gli ha distrutto il telaio di una Ferrari ieri con i gommoni Pirelli di Tronchetti Provera. Allora, caro Genta, chiediamocelo, ma dove andremo a finire? Ecco, o meglio ancora, come il titolo di un libro famoso di Enzo Biagi e Eugenio Scalfari, come andremo a incominciare? Perché il 24 febbraio arriva la Ferrari nuova, ve lo dico. Giù i veli, giù il vestito, vediamo cosa c'è sotto il vestito. Io vorrei qui fare un'altra citazione: sotto il vestito niente, ma spero di avere torto. E il 27 di febbraio c'è proprio la prova della verità, prova del budino, perché tutte le scuderie saranno contemporaneamente in pista a Barcellona. E quello sì che conta. Si comincerà a intuire qualche cosa. Grazie Leo. Ci stiamo avvicinando, maestro Genta, siccome per fortuna tua nel weekend non lavori. No, come non lavoro? Domenica sono qui con Giovanni Capuano. So lavoro. Tu so che lavora Giovanni, ma tu no. No, io non sono qua. Ti auguro buon riposo. Ma che buon riposo? Ti conosco e auguro buon lavoro a Giovanni, anche a nome di Pioli, Zhang e tutti noi. Difendimi Capuano, sono qui con te. No, sarà qui assolutamente qui. Presente. Domenica dalle 17 ascolti, alle 19. Sono sicuro che direte a gente un improvviso inconveniente. Ma no, sono qui. Gente come Leo Messi delle amichevoli, non scende mai in campo. All'ultimo momento dice ma una contrattura. Sì, si fa pagare. No, prima. Ecco. poi non si presenta. Ecco. Ciao Leo, ragazzi, grazie. Ti voglio bene. A chi? Ma due cose su interview e non ce le dici, Leo? Ancora? Ragazzi, posso dire, concludendo, io sto con l'Apoel. Ecco, questo mi sembra, no? Che posso fotografare la vostra richiesta. Basta, mi sembra sufficiente. Grazie, va, Leo. E ci siamo, un abbraccio. Ciao, basta! Ciao. Basta! Basta! Ed è così, non ti sei spaventato, no, Davide Pessina? No. Tranquillo, è roba di tutti i giorni. Ciao Davide. Ciao, buongiorno. Senti, una battuta su Milano che si suicida in Eurolega in un momento in cui tutto sembrava, insomma, non dico portare verso una rimonta impossibile, però verso uno splendido momento, compreso l'andamento della partita che ha visto Milano avanti praticamente sempre fino agli ultimi spiccioli, gli ultimi brandelli di partita, e questa sconfitta con l'Efes 90-86 che la condanna. È un po' forse la fotografia dell'anno di Milano, nel senso che la dimostrazione che ogni tanto manca qualcosa, perché erano, si era rimessa in carreggiata, la situazione sembrava ormai definitivamente compromessa, e invece con qualche minima speranza ha giocato molto bene il primo tempo, e poi come spesso, come a volte succede quando sei avanti, cominci a pensare pensare che d'aiuto rimontano. E così sì, diciamo che sono giocati probabilmente il possibile passaggio del turno. Invece Giovanni, parliamo del putiferio, del putiferio di New York, una cosa incredibile, ma era una bolla pronta ad esplodere dopo l'avvento di Phil Jackson, molte parole, molte promesse, non c'entra neanche Rizzoli in questo caso. Però succede che in tribuna l'altra sera un grande ex molto amato, Charles Oakley, litiga con il proprietario dei New York Knicks, e Dolan interviene, la security, mezza rissa, un colpo di Oakley, che piccolo non è nonostante gli anni, a uno della security, portato via in manette, con il Garden che inneggia a Charles Oakley, e Spike Lee, che comunque nell'opinione pubblica di Knicks qualcosa conta, che dice: ma Phil Jackson, invece di mandare via Carmelo Anthony, perché non te ne vai tu? Da dove cominciare? È l'ennesimo psicodramma dei Knicks. Non c'è niente da fare, non riescono ad avere una stagione più o meno tranquilla. È una squadra che, dopo aver vinto gli anni 70, aver fatto le finali a metà anni 90 proprio con Charles Oakley come giocatore, non riesce più a uscire da questa mediocrità. Il proprietario non è particolarmente amato, c'è una lite aperta con Charles Oakley ormai da tanto tempo, da quando l'avevano già scambiato nel 98, credo fosse andato a Toronto. Però da lì, insomma, Oakley non è uno che si tiene le cose per sé, per cui ha criticato la proprietà, ha criticato la società. Da lì praticamente ha avuto una specie di bando, non può più entrare, o meglio, può entrare, però c'è sempre la security che lo segue da tutte le parti. Cosa sia esattamente il successo al Garden non si capisce bene, se sia stato Oakley a cominciare o se immediatamente siano arrivati a prescindere questi da security per mandarlo via. Sta di fatto che in TV, in diretta nazionale, contro i Clippers, tutti hanno visto quello che sta succedendo, l'ennesima puntata di questa saga. Ecco, la situazione è complessa, se si aggiunge Phil Jackson con i suoi tweet, ai più incomprensibili, attacca un po' Carmelo, poi gli chiede scusa, poi dice che fa pace. Insomma, la situazione mi sembra pronta per esplodere definitivamente. Eh sì, ho impressione anch'io, e sarà forse il primo fallimento di Phil Jackson in carriera, questo dei Knicks. E lo dice un grande estimatore di Phil Jackson, che per me è un idolo assoluto del Pantheon. Grazie Davide. Grazie a voi. Ti abbraccio. Grazie, ciao, Davide, ciao, ciao. Pessina. Mi spiace per Alessandro da Milano, non siamo riusciti a parlare insieme. Lo richiamiamo domenica. Faremo domenica. Domenica 17:05, dopo Inter-Empoli, dopo Crotone-Roma, dopo il Napoli, dopo la Fiorentina, prima di Cagliari-Juve. Saremo qui. Prima di Lazio-Milan. Prima di Lazio. Dopo le discese dei mondiali. Parliamo di tutto. Saremo qui. Grazie a tutti. Grazie anche a Giorgio Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronati in regia, Edoardo Lavezzari in redazione. Ci sentiamo domenica per l'appunto. Ciao. Ciao.